se fosse una vita diversa, una vita che ti ascolta più leggera di così. Una che sembra una festa, come le labbra di una sposa quando lei ti dice sì, senza bisogno di spiegare, senza complicarci il pane, liberi di sbagliare. E le notti che non torni più a casa, e l'amore quando arriva a sorpresa, e bruciare il tempo che vuoi bruciare, una vita che ti sai perdonare. Sì, sì, sì, voglio una vita diversa, come il matto del paese che racconta le sue imprese. Una che ti apre le braccia se ti perdi nel solito bar. E le notti che non torni più a casa, e l'amore quando arriva a sorpresa, e bruciare il tempo che vuoi bruciare, una vita che ti sai perdonare. Io e te, per fortuna qui, io e te, per colpa dei CD. Maledetta te, sai sempre confondermi, e ancora, e ancora, e ancora. E le notti che non torni più a casa, e l'amore quando arriva a sorpresa, e bruciare il tempo che vuoi bruciare, una vita che ti sai perdonare.